Allora, torniamo in voce, Giordano. Allora, torniamo a parlare di Wolmà pure nella sua interezza, perché poi qua, insomma, come ci insegnano i Mapuche, quando si parla di Mapuche facciamo un po' di difficoltà a parlare di Cile, Argentina, ci tocca farlo quando si tratta di estradizioni, di carceri. Esattamente. E chiaramente, per esempio, una differenza, per quanto assurdo, insomma, nel male c'è una differenza, ovvero sicuramente il trattamento dei detenuti politici nelle carceri cilene è sicuramente, indubbiamente, a parità di giustizia fallace e costruita, sicuramente le leggi antiterrorismo e la legge di sicurezza cilena non aiuta, che non significa che splende quella argentina, che assolutamente non lo è, ma al peggio non c'è mai fine, e nel male del carcere argentino sicuramente quello cileno pone tantissime difficoltà in più. Insomma, ricordate quantomeno quando era detenuto in Argentina riuscimmo a raggiungere telefonicamente Facundo Quala, tutta una serie di possibilità in più, e sicuramente molto viene fatto anche per allontanare i detenuti Mapuche dalle proprie comunità. Sapete quanto per una comunità indigena raggiungere il centro abitato significa comunque un grosso lavoro di spostamento, e quanto lo può essere poi dover raggiungere, ahimè, un altro stato. Raccontaci. Ecco, insomma, prima di tradurre e di ascoltare insieme l'audio che ci è stato mandato appunto dal Wolmapu, facciamo una brevissima contestualizzazione nel dire appunto, insomma, come abbiamo già parlato numerose volte, il carcere di Temuco, essendo Temuco la città, la capitale, diciamo, della Araucanía, quindi la regione cilena a maggioranza Mapuche, il carcere di Temuco è diventato il carcere dei prigionieri politici Mapuche. E, in particolare, insomma, da qualche giorno è iniziato l'ennesimo sciopero della fame del MACI Celestino Cordova. È bene ricordare che il MACI o la MACI è una delle massime autorità spirituali Mapuche, quindi considerato un po' come una guida spirituale fondamentale all'interno del popolo Mapuche, diciamo, inteso in maniera integrale, e per le singole comunità. Il MACI appunto si trova in carcere dal 2013, è stato condannato a 18 anni. Insomma, ripetiamo che questo numero 18 anni ritorna un po' sempre sulle condanne ai prigionieri politici Mapuche, quindi dimostra anche un po' che non c'è poi effettivamente un ragionamento anche su quello che è effettivamente il capo di imputazione, quindi la pena, ma è, diciamo che di principio gli diamo 18 anni, perché questo dice la legge pinochettiana che è ancora in vigore. E appunto si trova in carcere perché è accusato di doppio omicidio verso una famiglia di origine svizzere, una delle tante famiglie europee che è emigrata in Cile all'inizio del XIX secolo per supportare quello che era il progetto politico e giuridico di creazione dello Stato cileno, che appunto poi, come sappiamo, si è fondato sull'espulsione, sull'esproprio delle terre indigene e delle terre Mapuche. Nonostante anche le prove che dimostrassero una mancanza di prove da parte del pubblico magistrato, comunque il tribunale ha condannato a 18 anni il MACI Celestino Cordova, che appunto ad oggi si trova attualmente in carcere. Quella che è la rivendicazione dello sciopero della fame è la mancanza dell'applicazione, secondo appunto le comunità Mapuche, della Convenzione 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, la quale garantisce ai popoli originari di mantenere e di avere il diritto di praticare quelli che sono i loro culti ancestrali, i loro culti originari, quindi di mantenere vivida quella che è la loro cultura. E appunto anche questo, ovviamente, come tante altre cose, è stato negato all'attuale MACI sciopero della fame, come è stato negato a tanti altri prigionieri politici Mapuche. E quindi, ecco, insomma, questo era un po' un'introduzione. Ora traduciamo quello che è l'audio che ci è stato mandato. Mai mai compu gonen, compu nisol, compu fileo, mai mai compu papai, compu chachai, mai mai compu che. Incheta Cristina Romo Peralta Piñén, formo parte della vocería della huelga de hambre del MACI. Faccio parte di portavoce sullo sciopero della fame del MACI Celestino Córdoba. Comunicato pubblico, riinizio di huelga. Oggi vogliamo comunicarvi quanto segue. Comunicato pubblico, riavvio dello sciopero della fame del MACI Celestino Córdoba, lunedì 4 maggio 2020. Al pueblo chileno y todo a Bayana, que resiste frente al colonialismo. Alla nazione Mapuche, al popolo cileno e a tutti i popoli che resistono al colonialismo, al capitalismo estrattivista e alle nostre autorità tradizionali e spirituali. Oggi il Maci Celestino Cordova ricomincia il suo sciopero della fame in modalità indefinita che aveva sospeso il 20 marzo, con un peso di 94 kg e 300 grammi. Davanti alla non volontà del governo di applicare il convegno 169 verso i prigionieri appartenenti ai popoli indigeni, e per questo che il MACI riprende questo sciopero della fame. Consapevoli di tutte quelle che sono le conseguenze. Le richieste sono concrete ed esigono ancora una volta giustizia come popoli originari, privati della loro libertà. Cambio del luogo della condanna da compiere nella propria casa applicando il convegno 169. B. Cambio delle misure di compimento della condanna di tutti i prigionieri politici mapuche e non mapuche che possono compiere nelle proprie case o comunità mapuche. C. Cambio delle misure cautelari a tutti i prigionieri politici mapuche e a tutti i prigionieri politici accusati della rivolta. Exigimos el respeto irrestricto. Chiediamo il rispetto del convegno 169, specialmente gli articoli 9 e 10 in relazione al trattamento dei nostri prigionieri nei carceri di questo paese. Qui ci sono responsabilità da parte della gendarmeria e del governo del Cile, i quali non hanno tutelato la vita dei detenuti e non sono in condizione di farlo. Incluso Brasil, con el gobierno que tiene, fue capaz de aplicar. Persino il Brasile, con il governo che ha, è stato capace di applicare il convegno 169 in questi casi. Pertanto diventa volontà politica applicare questa petizione in modo concreto. Esta huelga de hambre está autorizada por el mundo espiritual. Questo sciopero della fame ha l'autorizzazione del mondo spirituale e pertanto ha un carattere spirituale. Quindi vogliamo sottolineare la necessità urgente di alzare la nostra spiritualità mapuche in tutti i settori e territori. E rivolgiamo un appello ad agire di conseguenza. Siamo in tempi di lotta e di resistenza e dobbiamo supportarci come fratelli e sorelle in qualsiasi territorio ante las amenazas de cualquier tipo, ed alzare la voce davanti alle minacce di qualsiasi tipo. Lasciare la passività e passare all'azione. E questo sciopero significa proprio questo. È un passo verso la mobilitazione, dato che è preferibile morire lottando che vivere in ginocchio davanti a un sistema oppressore che attraverso la paura di un virus opprime implacabilmente. Il richiamo a camminare insieme ogni giorno diventa urgente, vista l'avanzata del capitalismo e le sue oppressioni economiche, come le imprese estrattiviste che stanno depredando la nostra madre terra. È per questo che oggi l'appello va all'azione unitaria e alla convergenza delle diverse lotte che si stanno realizzando nel territorio. A buscar formas de entendimiento y puntos en común que posibiliten la unidad. Punti di incontro e punti in comune che possano agevolare l'unità. Dai mapuche e non mapuche alla ripresa del buon vivere. Libertad a todos los presos políticos del estallido social. Libertad a todos los presos políticos. No más represión y desalojo para los territorios. Libertà per i prigionieri politici mapuche, libertà per tutti i prigionieri della rivolta sociale, libertà per tutti i prigionieri politici. Basta repressione e sgomberi per i territori e resistenza. Maci Celestino Cordova, portavoci, famiglia, amici e rete di supporto.